Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Allora, perché è così importante accendere un fuoco? Col fuoco posso riscaldarmi, posso fare segnalazioni di soccorso, posso far bollire l'acqua, posso tagliare. In che modo? Se io ho un ceppo lungo, grosso, il fuoco lo accendo sotto, lui farà il lavoro mio fisico, cioè bruciando centrale lui mi taglia. Poi taglia. Poi posso farmi delle armi e far indurire certo, una punta di una lancia. Non è da tutti avere fuoco. Un ceppo lungo e grosso, quindi non tutti come questo signore possono essere autosufficienti in mezzo a un bosco e accendere un fuoco. Partiamo dalla base, così capite cosa voglio oggi da voi. Questo signore inizia con quelli che sono i dettami, proprio le basi del manuale delle giovani marmotte, del corso base di ogni lupetto e di ogni aspirante Boy Scout. Accendere un focherello sembra che sia una cosa difficilissima, ma in realtà accendere un fuoco è più semplice di quello che si pensi. Chissà perché tutte le persone pensano che il primo elemento di sopravvivenza sia accendere un fuoco. Ancora siamo ben lontani da una sorta di disastro post-atomico in cui anche accendere un fuoco probabilmente è una difficoltà. Oggi basta portarsi un accendisigari in tasca, tutti se lo portano in tasca se vanno in un posto sperduto, lontano e brullo e vogliono comunque accendere un fuoco, perché bisogna accendere un fuoco non si sa bene, qualcosa di pericoloso, se non sa gestire il fuoco, perché il fuoco poi si allarga, poi dal focherello che accendete probabilmente rischiate di dare fuoco a mezza foresta. Ma per cosa accendete il fuoco? Avete paura dei lupi? Beh, insomma, il fuoco nella maggior parte dei casi uno lo accende quando va a fare una grigliata a bordo strada su degli attrezzi, delle aree attrezzate apposta per i turisti, è già tutto pronto, addirittura ti danno anche la carbonella. Però il tema è divertente, interessante. Qual è il nostro livello di autonomia? In cosa siamo autosufficienti? Diamo per scontato che sappiamo accendere un fuoco. Benissimo, sappiamo accendere un fuoco, quindi possiamo fare bella figura quando diciamo a qualche amico: andiamo a cuocerci delle salsicce, della carne, delle bruschette all'aria aperta, quindi noi sappiamo fare il focherello, accenderlo, trovare la maniera di fare degli spiedini se non abbiamo la gratella apposita. Insomma, sappiamo fare, cucinare, appoggiare, preparare qualcosa. Ma andando avanti non è soltanto questo. Basta semplicemente che magari ci troviamo in una casa non perfettamente attrezzata che ci hanno prestato, che abbiamo casualmente ottenuto in uso. Ci manca tutto. Cosa sappiamo fare? Sappiamo cucinarci? Sappiamo arrangiarci nell'accomodare, non so, un impianto elettrico che non funziona? Sappiamo riparare un rubinetto che perde? Sappiamo dove si vanno a cercare le strutture che aprono e chiudono acqua, gas, luce? Andando avanti, ci si stacca un bottone poco prima di un impegno importante, sappiamo come ricucirci un bottone. Andando ancora avanti, abbiamo bisogno di orientarci e non abbiamo un telefono sotto mano in una città, in una campagna, in un luogo aperto, sappiamo come orientarci. Andando avanti ancora, ci lascia la moglie o ci lascia la mamma o ci lascia la persona che accudisce al nostro quotidiano, sappiamo da che parte si inizia per fare una spesa, per riempire un frigorifero, per organizzare una settimana di vitto e alloggio per noi e per i nostri figli. Insomma, io voglio sapere questa mattina qual è il vostro livello di autosufficienza, in quanto e come siete autonomi, quanto sapete fare con le vostre mani, con la vostra autonomia, quello che normalmente altri fanno per voi. 800 24 00 24. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Non puoi accendere dei tronchi enormi di questo tipo, perché lui fa delle grosse scintille. Okay? Sono dei, quello lì è una sticella di ferro cerum, viene chiamata, dove all'interno c'è del cerio, c'è del magnesio, sono dei vari metalli che sfregati assieme, dopo lo vedrai, faranno delle grosse scintille, ma risultano comunque scintille. Quando tu con il tuo fire steel, lo dice anche la saggezza degli antichi, accade anche all'osteria numero 1000, ma non voglio adesso esagerare sulla facezza. Questo è un signore che spiega ai ragazzi come si accende un fuoco in sicurezza. Non è soltanto questo, ma è anche questo. Già accendere un fuoco può essere per voi un problema. Già mi arrivano le prime segnalazioni di di insufficienze legate anche al mondo della tecnologia contemporanea. Mi scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice: mio padre non è in grado di usare il DVD, il decoder, il PC. Una volta dovuto appendere un quadro e fece un cratere nel muro che richiese l'intervento di un muratore, però sa accendere il fuoco. Vedete, questo signore, questo post-umarel, sa accendere il fuoco, ma si trova completamente imbranato davanti a un DVD. Ricordo anche mio padre, totalmente autosufficiente, sapeva fare tutto con le sue mani. La prima volta che vide un fax ci perse 2 ore perché vedeva che il foglio tornava sempre indietro, e quindi non si immaginava come mai quel foglio, lui pensava per una sorta di fenomeno di teletrasporto, dovesse arrivare da un'altra parte, gli tornasse sempre indietro. Sandro, buongiorno. Buongiorno, mi dica. No, lei mi deve dire, visto che ha chiamato, mi dimostri la sua autosufficienza. Ma in quasi tutto praticamente, perché ho fatto una casa da solo, a parte le fondamenta. Ha costruito casa da solo, quindi sa fare il muratore. Esatto, l'idraulico, ho fatto l'impianto, ho messo la caldaia, ho fatto l'apparato elettrico. E come dicevo, porto con me sempre... Tutto questo tutto fatto da solo, però scusi, senza nessuna certificazione, abusivamente. Certo, abusivamente. Basta saperlo. Quanti anni fa è successa questa cosa? Questo l'ho fatto verso l'82-84. Diciamo c'erano leggi più meno restrittive. Oggi fare un impianto elettrico da solo non si può. Certamente. Ma lei come ha imparato? L'autosufficienza cosa gliel'ha data? Da solo. Ho letto qualche libro di sopravvivenza e poi, siccome so fare 2+2, allora piano piano ho fatto. Tuttora lei come di radioamatore, quindi l'elettricità, per esempio. Vabbè, allora Sandro, se lei fosse messo in un sacco abbandonato in mezzo a un bosco desolato, saprebbe sopravvivere da solo? In un sacco? Sì, un sacco, per dire, per non fargli vedere dove la porto, poi il sacco lo apre da dentro. Per orientarmi? Tutto. Conoscere la latitudine, vedere le stelle, sapere più o meno dove mi trovo. L'ha fatto Cristoforo Colombo, lo faccio anch'io. Lei è sempre attrezzato, sempre porto sempre con me un coltellino cosiddetto svizzero. Ah, quello multilama, quello con tutti gli attrezzi. Sì, assolutamente. Con lo stuzzicadenti, la lente, tutto. Con tutto. Quello proprio che costa tantissimo. Ma per cosa lo usa quotidianamente? Per qualsiasi cosa. Faccio per esempio come lima. Ah. Sapesse come lima come funziona, c'è una lima incredibile. Ah, ma uno mica deve segare le sbarre della galera, scusi, la lima che ci fa durante la giornata. Come che ci faccio? Si incontra sempre un pezzo di ferro che non va, la macchina che è successo qualche cosa, un buco da fare. Ah, perfetto, quindi lo usa spesso. E che altri attrezzi deve portarsi dietro una persona per essere sicura, secondo lei? La corda è importantissima. E che ci fa con la corda? 30 metri di corda, può succedere di tutto. Ma dove se la mette 30 metri di corda? Un poveraccio, per esempio. No, scusi, no, oppure si è messo. Sandro, prego. 30 metri di corda è una bella matassa, dove la mette? No, devono essere 30 metri, assolutamente. Perché 30 e non 20? Perché con 30 puoi fare quasi tutto. E che tipo di corda è? È quella, diciamo, più o meno quella da barca, va bene, da arrampicato da barca, ho capito. Sì, sì, su questo non ci sono. E tutti. Poi cos'altro serve? Vediamo il kit di sopravvivenza. Allora, se andiamo avanti, quindi la corda l'abbiamo detto, il coltellino, un accendino. L'accendino è importantissimo. Sì, così uno non perde tempo con i legnetti, con le lenti. È una cosa incredibile. Poi ricercare la lanugine nelle tasche per accendere il fuoco, è ottimo. Vabbè, le tasche. C'è sempre la lanugine. No, quello è importantissimo. Dipende, se uno porta vestiti in tintoria, la lanugine, insomma, va bene. Accendi con la lanugine. C'è sempre. Va bene, questo è molto interessante. Fermo lì, poi Sandro. Il sacco a pelo. Ma dove, tutta questa roba dove la tiene lei? C'ha sempre uno zaino? Che ci vuole? Occupa pochissimo spazio, non sacco a pelo oggi è proprio quasi niente. Quindi lei tutti i giorni esce di casa col sacco a pelo, la corda è 30 metri? No, non è che esce, dentro la macchina ci sono, punto e basta. In macchina, non si sa. In macchina. Certo, però il momento, diciamo, della sopravvivenza avviene che lei a piedi sta sprovvisto, c'ha solo il coltello magari e basta. Sì, solo il coltellino, esatto. E la corda l'andrà tagliata. E l'accendino, la corda non la porta appresso. Vabbè. Però se vado in macchina ed esco e vado nel bosco, mi porto la corda. La corda, non si sa mai. Gigi, buongiorno. Gigi è caduto. Massimo. Massimo è al telefono, eccomi qua. Sì, la sua autosufficienza a che livello arriva? Beh, la mia autosufficienza è diventata enorme. Da perché quando? Io ho avuto un'istruzione manuale e visiva da parte del nonno e del babbo. Ah, quindi c'è una trasmissione di saperi umarellici in da famiglia, parte suo nonno. Perfetto. Sì, però sono cose che si cominciano ad attivare quando se ne ha bisogno, questo è vero. Io però sono stato insegnante elementare e ho fatto sempre tesoro della manualità. Ho insegnato ai miei bambini a cucire. A cucire? A inchiodare. Ad avvitare. A usare un taglierino, a usare una pinza, a usare una tenaglia. Che forse lei sembrerà banale a chi ci ascolta, ma mentre per la nostra generazione, non so quanti anni abbia lei, ma penso che... 66 anni. Ecco, diciamo, siamo più o meno della stessa generazione, era normale, perché in ogni casa c'era la cassetta degli attrezzi. Oggi un ragazzo ventenne non distingue un cacciavite a croce da un cacciavite piatto. Non riesce... dovrebbe pensare la scuola, dottore. Lo so, non lo fa nessuno. Non c'erano applicazioni tecniche, qualcosa si faceva. Sì, certamente. Però nessuno sa più, è difficile, che a occhio non capiscono qual è il passo di una vite, la dimensione di un bullone, una chiave inglese, dammi una 15, non sanno esattamente di che si tratta. Forse non sanno nemmeno che ci sono dei numeri che le contraddistinguono. Non sanno che la chiave della candela è la 22, queste cose qua non lo sanno. Se a 6 anni un bambino si trova di fronte a questi oggetti, a questi utensili, comincia a avere una strada da seguire. Ne farà tesoro a 30 anni forse, ma lo farà quando ne avrà bisogno. Non ci sarà una scuola allora, però ci sarà un ricordo, una attività che lo potrà sostenere in una ricerca anche personale. È molto importante questo. Allora, abbiamo cominciato a capire da un primo orientamento, finora hanno chiamato soltanto ascoltatori maschi, ma io parlo anche per le nostre ascoltatrici, il livello di le donne sono molto più autosufficienti, le nonne sapevano cambiare la resistenza ai ferri da stiro, pur sapendo nulla di elettronica, sapevano fare dei lavori in casa, si ingegnavano, anche perché... Una volta non è che facessero grandi cose i maschi in casa, normalmente erano abbastanza inetti, si facevano delle professioni tipo impiegatizio e supplivano le donne si arrangiavano, martelli, pinze, attrezzature varie, le usavano più le madri che i padri, a meno che i padri fossero delle persone particolarmente dotate di spirito umarellico. Quindi vorrei sapere anche dalle signore qual è il vostro livello di autosufficienza. È chiaro che vi fa ridere pensare che per noi è un problema stirarsi una camicia, dover fare una spesa o anche cucinarsi. Sono uomini totalmente incapaci a cucinare, che se non c'è la moglie, non c'è la mamma, a casa loro non sono capaci, muoiono di fame piuttosto, vanno avanti a panini, tramezzini e pezzi di pizza. Anche questo è il livello di autosufficienza. Renato Palmieri, buongiorno. Buongiorno. Allora, Renato Palmieri l'ho fatto ascoltare, sarà fatto delle grandi risate, perché lui è un esperto di autosufficienza ad alti livelli, è guida ambientale, escursionistica, è istruttore di sopravvivenza di italiaadventure.it, poi ci spiega cos'è, e soprattutto sta per andare a vivere sulla Maiella da solo, in una casa dove vivrà totalmente isolato. Lei cosa fa? Mette in pratica tutto quello che ha studiato in una vita di istruttore di sopravvivenza? Esatto. E migliorando alcune cose, quindi il passaggio dalla vita semplice che adesso sto conducendo in un borgo qui in Abruzzo, un borgo medievale, si trasformerà in una vita lontano dalla massa, che penso sia più utile riuscire a vivere da soli, avvicinarsi. Ma so cos'è, una scelta mistica, deriva da una sua delusione di vita? Perché ha scelto, lei mi sembra una persona giovane, di isolarsi dal mondo e andare a vivere da solo? No, isolarsi nel senso di allontanarsi leggermente. Leggermente, sì, avere la possibilità di andare in paese quando ce n'è bisogno, perché in questi ultimi anni c'è una cosa che mi spaventa, che sono proprio le masse. Allora, mi dica una cosa, vi faccio capire, essere autosufficienti nel senso vero della parola non significa avere un freezer di 3 metri per 3 metri, uno va con il camioncino, fa la spesa e poi si mangia i surgelati. Io immagino che una persona come lei comincerà a seminare le sementi con cui si farà le focacce, qualcosa del genere. Sicuramente, le cose importanti sono quattro: acqua, aria, terra, fuoco. Quindi riuscire ad avere le conoscenze per poter attingere questi elementi fondamentali in natura ti permette di non andare col camioncino a fare spese nei supermercati. Ma l'acqua verrà dai rubinetti o dovrà scavarsi anche un pozzo? L'acqua sulla Maiella è presente in varie forme, ci sono tanti fontanili e c'è la possibilità di portarla anche a casa. Ma quindi lei non avrà l'acqua corrente, in questo posto dove va non avrà acqua corrente? Probabilmente riuscirò ad avere l'acqua corrente, però ho vicino un fontanile, 5 minuti di cammino, che è un'acqua vicina. Ah, quindi è proprio una situazione, diciamo, abbastanza arcaica. Cosa mangerà? Di cosa si nutrirà? Allora, continuerò la coltivazione dell'orto. In questi anni ho avuto modo di accurare che un'estensione di 400 metri quadrati di terreno permette autosufficienza per tutto l'anno per una famiglia di 4 persone. E lei quanto ha a disposizione? Poi sulla Maiella avrò a disposizione 2 ettari tra terreno e bosco. Allora, fermiamoci un attimo, do la linea per qualche istante, intanto prendiamo respiro, poi ci continuerà a spiegare Renato Palmieri, che è il punto più estremo dell'autosufficienza, è una persona che tutta la vita ha insegnato e ha studiato i sistemi per mantenersi autosufficienti senza chiedere niente a nessuno, trasforma questa sua perizia in un'esperienza di vita. Va in una casa abbandonata alla Maiella, come vedete comincia da zero, si coltiverà il cibo a lui necessario, si porterà l'acqua dal fontanile e poi chissà quante altre cose farà da solo, ce la racconterà fra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione, dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog, cronache meridiane. Oggi proveremo a tagliarci i capelli insieme. In realtà questa è una cosa che io faccio già da molti anni, almeno 6 anni, e avevo iniziato verso i 14-15 anni semplicemente tagliandomi la frangetta. Sono diventata piuttosto brava, più per necessità che per voglia, in quanto non ho mai trovato un parrucchiere che facesse quello che gli chiedevo io. E ora vi faccio vedere i miei tatuaggi, ve ne parlerò un po', non so se l'ho già detto, però molte cose me le sono fatte da sola, tipo il piercing me lo sono fatta da sola, il secondo buco me l'ho fatta da sola, tutti e due gli helix, sia questo qua che l'ho tolto, li ho fatti da sola. Questa è la mia penna per i tatuaggi. 800240024, stiamo elencando alcune di quelle che possono essere le attitudini all'autosufficienza più tipicamente femminile, farsi i capelli da solo. Ci sono delle ragazze, signore, se non vanno alla parrucchiera non sono capaci a farsi nulla, altre dicono io faccio da solo anche la tinta, non so esattamente cosa voglia dire fino in fondo, però hanno un livello di autosufficienza più elevato. Anche molti uomini si fanno i capelli da soli, si vantano, io mi faccio i capelli da solo da sempre. Molti sono incapaci di farsi la barba o di aggiustarsi la barba, farsi piercing, farsi tatuaggi, farsi da soli, già comunque a un livello di autosufficienza. Non si muore senza tatuaggi, non si muore senza piercing, quindi non è una tecnica per salvarsi la vita, ma serve comunque magari a mantenersi più in linea con le proprie predisposizioni interiori se uno si vuole tatuare. Mi scrive un ascoltatore dandomi l'ignorante, non fare il supponente, la chiave della candela è la 21, ho capito, scusate, ho detto la 22, sono almeno 40 anni che non smonto una candela, la 21 e la 22 a tubo stanno sullo stesso tubo, probabilmente ho sbagliato, scusatemi tanto, è la 21, giusto, è la 21 per smontare la candela. Questo signore sa tutto sullo smontaggio delle candele, giustamente rivendica la sua perizia. Maria, buongiorno. Buongiorno. So sopravvivere. Sa sopravvivere, beh, già anche questo è già molto. Anche se mi lasciano in un bosco o anche in un posto anche più difficile. Ecco, lei è abbandonata nella casetta sulla Maiella del nostro ospite che ci ascolta. Da dove inizierebbe comunque la sua operazione di sopravvivenza? Beh, intanto controllo che cosa ho e che cosa non ho. E questo che cosa posso giusto. Fare e cosa posso non fare, come Robinson che fa l'elenco di quello che ha, giustamente. Certo, l'inventario, fuoco, l'acqua, l'inventario, posso cercare le radici. Ma si mangiano le radici? C'è questa idea, mangiamo sì, le radici sì, altre no. Dove si trovano le radici che si mangiano? Sottoterra. Ma quale radice si mangia? E ci sono delle piante che hanno una sorta di tubero che può essere più o meno amaro, come il cardo ad esempio. Come il cardo, ad esempio. Ma lo mangiano gli asini? Dove si trova? Se mi trovo nei boschi dove ci stanno le castagne, dove non ci sono le castagne, dove possono trovare i funghi. Però le castagne e i funghi saranno una stagione dell'anno, poi basta. Certo. Se ci va a dicembre che raccoglie? Dovremmo mettere in conto che prima o poi qualcuno ci stacca la spina e noi torniamo primordiali. Quindi lei si sentirebbe tranquilla, lei non avrebbe problemi. Mi sentirei tranquilla, certo, magari un po' d'angoscia ogni tanto mi prenderebbe, ma quello è un altro problema, quello è un problema di tipo psicologico esistenziale, lo tocchiamo in un'altra puntata. Io penso che prima uno si sfama, si difende dalle belve feroci, si scalda, si copre, si disseta, poi si cura le ferite. Lei sarebbe curarsi le ferite? Sì, e tento di trasmettere anche poche cose ai miei nipoti. Cioè, se diciamo, dico sempre, potrebbe succedere che allora voi dovete un attimo sapere usare il coltello, sapere usare questo. Infatti quando aggiustiamo, non so, il ferro da stiro, nonché la bicicletta, ferma un attimo, no Maria, voglio sapere le cose precise sulle ferite. Se fosse colpita da una freccia, saprebbe strarsi la freccia con un coltello e ricucire, poi a cauterizzare la ferita? Perché tanti anni fa ho imparato a fare questa cosa, perché andavo in barca e allora mi ero fatta insegnare da un mio cugino medico come suturare. Sarebbe capace? Sì. Guardi, io le dico una cosa. Io mi sono operato un menisco e devo farmi ogni giorno delle punture sulla pancia, delle siringhine piccolissime di una cosa ridicola. Per farmi la prima ci ho messo mezza giornata, perché infilarsi un ago sulla pancia da soli, devo dire, mi sembrava una cosa impossibile. Poi l'ho fatta, le facevo occhi chiusi, ma all'inizio avevo la sudarella, quindi penso che mettersi un ago e cucirsi non è proprio così facile. Renato Palmieri, ricordo la nostra guida ambientale escursionistica, che sta per andare a vivere da solo nella Maiella. Lei è capace di ricucirsi una ferita da solo? Ho sperimentato su cavi, sì. Anche la tracheotomia in caso di shock anafilattico. Cioè infilare una penna biro e far respirare una persona bucandogli la trachea? Sì, io l'ho visto fare nei film, ma penso che in realtà ci sia un po' più di problemi, no? Io penso sia molto meglio prevenire questo tipo di incidenti che intervenire in assenza di materiali sterili e in assenza di materiali utili. Però per salvare una vita uno prende la penna bic, la infila nella gola e fa respirare, come si vede. Se ce l'ha a disposizione, sì. Diciamo, un ascoltatore di quelli saputelli, che hanno sempre l'SMS facile, dice sì, con 400 metri quadri non ci sopravvive neanche una persona. Ma non sono molto d'accordo, secondo me 400 metri quadri è un bel pezzo di terreno per poter fare delle cose serie per una persona. Ci fanno tante cose e io ci vivo con 400 metri quadrati da ormai più da una decina di anni e assicuro che si riesce ad avere l'osto sia estivo che invernale, per tutto l'anno, per almeno 4 persone. Certo, uno non è che pianta il grano per farsi il pane, che discorsi, ma tutto quello che è gli ortaggi, chiaro, logico. Sì, anche con gli alberi da frutta, c'è anche il pollaio dentro, quindi si ha la possibilità di avere anche delle galline e delle uova. Anche perché adesso inizia una stagione in cui non è che si coltivi più, poi nella Maiella immagino comincerà a nevicare fra un po'. Sì, infatti bisogna fare le scorte estive, le conserve estive per poter avere delle scorte per l'inverno. L'aspetto più difficoltoso, secondo me, è proprio quello sanitario. Se uno sta male, che fa? Chi ti dà la medicina? Come ti curi? Se proprio vuoi fino in fondo immaginare che non esista un mondo civilizzato al di là dei limiti che ti sei posto. Ecco, lei come risolve in questo caso? Non ci sono mai trovato, tranne che per le piccole ferite, le piccole cose, ad esempio un buon metodo per disinfettare una ferita è la corteccia del salice o anche la corteccia di quercia. Ci sono dei legnami che sono emostatici, quindi la conoscenza delle piante aiuta sia ad alimentarsi che a curarsi. Ci sono piante mediche le cui essenze possono servire per curare il raffreddore, i polmoniti, effetti antibatterici. Ci sono varie piante che ci aiutano. D'altra parte, prima delle farmacie esistevano le erboristerie. Walter, tornare ai saperi antichi aiuta tanto. E questo già richiede comunque uno studio approfondito, non è che se uno si improvvisa, prende la corteccia, se la mette sulla ferita, bisogna sapere quale corteccia e come usarla. Walter, buongiorno. Buongiorno. Lei è autosufficiente? Sì, sono abbastanza autosufficiente. Ho fatto tanti lavori nella mia vita, quindi... Ecco, mi faccia qualche esempio, le cose in cui lei non deve avere una manodopera specializzata, dentro casa, faccio un esempio. Serve, l'idraulico le serve? No, non mi serve. Assolutamente. Il falegname le serve? Assolutamente non mi serve. Il fabbro le serve? Assolutamente non mi serve. L'elettricista le serve? Non mi serve. Il medico le serve? Il medico dipende dalla malattia. Una mano amica, una mano amica ogni tanto le serve? Sì, sempre quella. Non è che siamo autosufficienti in tutto. Ma la mano amica per il morale, per la compagnia, perché buttando solo sulla montagna, comunque sopravviverei tranquillamente. Ma lei vive in città, è un cittadino, o vive anche lei in una casa isolata in mezzo a un bosco? Io sono nato in campagna, ma ho vissuto a Roma, ho vissuto a Torino, a Milano, a Mosca. Quindi diciamo, essere nati in campagna già aiuta molto. Sì, già aiuta molto, ben detto. Cioè io da ragazzo, per esempio, mi cucivo i miei pantaloni alla moda, perché i miei genitori non volevano assolutamente che andassi con i pantaloni che andavano una volta, ricorda, le gamba d'elefante, cose del genere. Le canzoni della zampa d'elefante erano considerati qualcosa di abominevole dai genitori, quindi le persone se li cucinano da... Lei si scampanava i pantaloncini da bravo ragazzo e faceva il giovane beat. Bravissimo, faceva due, tre campane uno sopra l'altro, era una figata quei tempi. Ah, beh, come vedete, sei ingegnato su questo. Già un uomo che sa cucire e di questo non lo considera un'onta, la sua virilità è un passo avanti. Cristina, buongiorno. Buongiorno. Allora, io invece per forza maggiore sono passata dal non sapere neanche che cosa fare entrando in posta, a mettere le piastrelle, a mettere a posto la macchina del gas, perché quando è venuto l'operaio a mettermi a posto la macchina del gas mi ha messo a disposizione le sue capacità, i suoi saperi, mi ha detto fai così la prossima volta, così non devi chiamare nessuno. E quindi l'ha insegnato? Ma ha insegnato come si fa. Aggiustiamo la macchina del gas, ma è quello lì che dice arriva la routine, era quello? Non è proprio quello, è un pochettino più specializzato. Io all'inizio avevo paura, perché ho detto come qui martello, faccio qui salta tutto, però poi per causa di forze maggiori l'ho fatto, come ho imparato a vaccinare gli animali, ho imparato a non andare in panico se mi sento male, ho imparato, l'unica cosa che ancora non so fare è cambiare la ruota della macchina, per il resto... Che poi rispetto a quello che dice lei è più semplice secondo me. Lo so, ma è una cosa mentale, non so, penso che in qualche mi sono organizzata anche in modo che venga il carro attrezzi di notte ovunque, perché pago l'assicurazione, buonanotte. Beh, ma questo quella piccolo proprio... sforzo però acquisterà molta più autonomia, perché oggi non è difficilissimo, sono dei click che si usano in maniera... No, lei ha ragione, è una cosa mentale, perché sto cercando almeno in qualcosa di dire, rimanere... Pensi che non sapevo neanche inghiottire le pasticche all'inizio, facevo storie anche su quello, ero rimasta allo stato di bambina. E quando hai imparato a inghiottire? Quando sono rimasta da sola, per forza, adesso ne inghiottisco anche 4-5. Adesso desageri, adesso non metto anche le piastrelle, so fare... A sa fare i pavimenti? Sì, li so fare, so mettere le piastrelle sia per terra sia al muro. Ma ferma un attimo, Cristina, no resti, una donna che ha queste facoltà, che dopo aver imparato a inghiottire la pillola ha imparato immediatamente, come se fosse una trasmutazione in supereroina, anche a fare rivestimenti in bagno, mi interessa. La viabilità un istante, poi continuo con Cristina. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Melog, cronache meridiane. Oggi mi sono costruito il mio kit di sopravvivenza. E allora iniziamo dalla piletta, è una pila dinamo a 3 LED, fa una luce molto potente e non ha bisogno di batterie, si carica così manualmente, della benzina, un richiamo per gli uccellini, degli ami da pesca, il coltellino multiuso, abbiamo il kit di pronto soccorso. Abbiamo anche un termometro, qui dentro abbiamo delle micette per spaventare eventuali animali o predatori, del nastro isolante, una clessidra per accendere il fuoco, qui abbiamo un accendino con una pietrina. Renato Palmieri, scusi, mi serve un parere... Ma le micette per spaventare gli animali e richiami per gli uccelli, poi quando la richiamati con che se li prende questo signore, secondo lei? Visto che c'è... Ma l'insieme di un kit commerciale che ha poca validità adesso. Cioè io tiro vede un lupo affamato e assetato di sangue, tiro le micette, cioè mi sembra un po' strano. Ma sì, non ha nessuna utilità, oltre al fatto che se io sono nel bosco cerco in silenzio di capire quali sono i suoi abitanti, perché anche quelli possono essere utili, ad esempio per cacciarli e per mangiarli, quindi non faccio scappare niente. quindi uno comincia con le cose più semplici e poi va avanti. Sì, la paura va gestita con un self control, con la gestione mentale del disagio, dietro ci sono altri argomenti da trattare. Poi ecco, c'è da distinguere la sopravvivenza e la sussistenza, perché molti la confondono. La sopravvivenza sono le prime 24-48 ore in cui una persona qualsiasi all'improvviso perde tutto e si ritrova senza niente. Quindi le prime cose da fare sono riparo e fuoco, dopodiché si parla di sussistenza, acqua, cibo, impianti elettrici e quant'altro. Allora, cerchiamo di capire, le prime 48 ore in cui uno si trova sprovvisto di qualsiasi risorsa a cui era abituato, dagli abiti per coprirsi la casa che magari viene giù, qualsiasi disagio che all'improvviso ti annulla tutto quello che possiedi. E sono, le più critiche sono le prime 48 ore? Sì. Sono i momenti in cui si parla di sopravvivenza. Quindi è corretto fare, come io ricordo le letture di Robinson, l'inventario delle cose che si ha a disposizione, tanto non c'è a fare l'inventario? È utile soprattutto se si è in più persone ad avere delle cose, ed è importante che ognuno sappia cosa c'è a disposizione, perché le qualità, le risorse. Le risorse di ognuno possono aiutare ad andare avanti alla comunità. Beh, diciamo che oggi tutta la... Le competenze, quello che uno sa fare. Infatti nei film di disastri zombeschi c'è sempre uno che più o meno sa fare il medico, c'è sempre un altro che è quello forte, l'ex poliziotto, l'ex soldato, è quello che spara, ammazza, difende, c'è sempre la donna che ha un tocco particolare, quindi cura e prepara le sussistenze e via dicendo. C'è sempre un insieme di competenze. Poi riprendo con Cristina. Cristina, lei ha capito il problema, è che le prime 48 ore bisogna sopravvivere e poi sì, si va in sussistenza. Lei sarebbe capace di essere autosufficiente le prime 48 ore? Io mi riallaccio a quello che ha detto adesso il signore, dicendo che la cosa più importante sì è tenere prima di tutto l'autocontrollo. Non mi è successo, per esempio, quando c'è stato il terremoto qui alle porte di Roma, si è sentito forte, no? Anche certo non c'è niente a che vedere con quello che è successo in Umbria, però è stato molto forte. Io vivevo da sola e sono rimasta assolutamente fredda. Sono andata a vedere, sono caduti dei libri, si sono aperte le ante dell'armadio, eccetera. Sono rimasta fredda, mi tremavano poi le mani, poi ho chiesto al dottore questo strano contrasto, perché le mani mi tremavano, ma io ero invece avevo un pieno controllo della situazione. Semplicemente la sera dopo ho dormito vestita e comunque adesso dormo sempre in tuta, in modo che dovesse succedere qualcosa sono già... Sì, è una schiera di amici e di amiche che comunicano che vanno a dormire con la tuta e con lo zainetto pronto con dentro generi sussistenza. E nello zainetto cosa ci mette lei? E nello zainetto del terremotato romano? Prima di tutto ci ho messo... Lo zainetto del terremotato romano. Sì, allora, prima di tutto i documenti, prima di tutto, perché mi dovesse succedere qualcosa mi va che sappiano chi sono. Un po' di soldi, un po' di cash. Dopodiché, sì, oppure il bancomat, perché comunque poi da qualche parte, io sono una grande camminatrice, ci arriverei. Vabbè, metta caso che si interrompono tutti i contatti con le banche, il bancomat non si trova. Lì siamo proprio allora in Un po' di cash lo porterei, un po' di cash lo porterei io. Dietro. Vabbè, la terrò presente questa cosa. Poi? Dopodiché l'accendino anch'io. Ma accende il fuoco dentro Roma, che ci fa col fuoco? Dove lo accende? No, sto alle porte di Roma, ma comunque se parliamo di Tregenda, è Tregenda totale. Io spesso ci penso, se morisse il mondo, quando vado a spasso con i cani nei prati, nel nulla, che sono stata anche attaccata due volte dai cinghiali, anche lì serve l'autocontrollo. Alle periferie di Roma è pieno di cinghiali, anzi arrivano anche nei quartieri più centrali. Sono stata attaccata due volte, quindi hanno preso i cani. Dov'era esattamente? Che zona? Ero vicino a Prima Porta, diceva, sulla Giustiniana. Diciamo. Da dove sta il cimitero, l'uscita verso dalla Roma Nord, no? Sì, lì vicino, esatto. E ci sono cinghiali che girano attorno a Prima Porta. E c'erano dei cinghiali, però un giorno non si sa perché due cinghiali veramente grossi, e lì c'è una cosa proprio atavica, perché ho sentito proprio i peli vicino ai capelli che mi si drizzavano da soli, una cosa atavica. Perché io ripeto, c'è sempre un certo distacco. Hanno preso uno dei miei cani, che è enorme, l'hanno fatto saltare come un foglio di carta. L'hanno squartato con le zanne? No, non gli hanno fatto nulla, grazie a Dio. non le hanno fatto nulla, è solo volata così con una faccia da scema, lei è volata ma così. Cinghiale è una palla da cannone, è compatto, che era enorme. Io non ho mai mangiato il cinghiale e continuerò a non mangiarlo, però devo dire la verità, adesso un po' più di antipatia ce l'ho. Gli ha fatto venire l'acquolina in bocca, lo vedo già in salsiccia. No, non lo farò mai, no, perché no, mi faceva simpatia. E mi sono ricordata di un amico che mi aveva detto, guarda che se tu salti, fai dei salti molto alti e gridi, ha funzionato. Guardi, sì, io... Ha funzionato. Auguro a nessuno di trovarsi... Sì, lei smessa a saltare, il cinghiale ha detto, tu questa salta, se n'è andato. Il cinghiale quando è attizzato e carica testa bassa, secondo me lei può saltare quanto vuole. Erano due, si sono fermati. Secondo me un po' della... Vabbè, come vedete, il mondo è pieno di imprevisti, il mondo è pieno di tranelli, il mondo è pieno di cinghiali assatanati che possono cogliervi anche alle porte di Roma, quindi questa trasmissione avrà dato dei dettami importantissimi per salvare la vostra vita. A lunedì.